más cantillo. Por su tito a los joven come una foto de un pues estante. Como un recuerdo que te empezó en la mente. Menos a lo frágil y más constante. No me importará più niente de la gente. Semplicemente sarò al di sopra de ogni critica. L'invidia spesso è racchiusa in chi solo giudica. E grazie alla musica che non è mai patetica. Questa è la mia vita e ti lascio questa dedica. Cerco ancora la mia strada, comunque vada aspetto la mia fermata. Fra una giusta o sbagliata, una scelta vaga, e come sempre preferisco una passeggiata. Cerco ancora la mia vita, ogni mattina che nasce non so com'è finita. Forse ho detto molti troppi di sì, forse è caso di fermarsi e riflettersi. Vorrei vivere così senza dubbi, ma è molto di più sì. Come due punti fissi di stare dirai di sì, che vorrei che il tempo si fermasse, mi popolasse, non mi facesse stare con persone a volte false. Vorrei giocare tutte le mie carte, mettere da parte, questa è la mia arte, ma tu sarai disparte. A te che corri sempre senza meta, c'è che per me la vita va vissuta dalla A alla Z, senza rimpianti, come molti ne hanno tanti, che non si fanno avanti per colpa dei ripensamenti. Sogni spenti, chiusi, stretti in un cassetto, aspetta.